dico vita, dimmi cosa è te e come vivi tu. Se dico forza, attacchio di me, t'ho detto amore e tu mi hai messo in gara, m'hai scritto sempre male, scritto sulla sala, t'ho detto eccomi e volevi cambiare, t'ho detto basta e m'hai detto non lasciare, abbiamo fatto l'amore e mi hai detto ah mi dispiace, mi hai lanciato una scarpa in un tacco, poi abbiamo fatto pace. Abbiamo rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco, e dopo un po' mi lanciato la solita scarpa al contatto, gridandomi di andare e di non tornare più. Io ho fatto finta di uscire, tu hai acceso la TV, e mentre un comico faceva ridere io ti ho sentito che piangevi. E allora sono tornato, ma tanto già lo sapevi che tornavo da te senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te, che sei una mia, niente teorie con te, soltanto pratica, praticamente amore. Se dico amore dimmi cosa intendi, siamo andati al mare e mi parlavi di montagne, abbiamo preso una casa in città e sogni la campana, con gli uccellini, le anatre e le ore, i delfini, i conigli, le api, la barberia e le porte, ogni tanto ti perdo o mi perdo nei miei cuori. Ho un zaino già pronto all'ingresso, ma poi tanto tu già lo sai che ritorno da te senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te, che sei come mia, niente più che con te, soltanto pratica, praticamente di sole per te. Che ritorno da te senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te. Un raggio di sole per te.